direttamente. Ciao. Ciao. Ciao Vittorio. Ma non so, ma perché hanno deciso per domani, no? Ho detto così. Io devo... Ma domani non c'è più Piscinola. No, c'è Chiaiano. Ma è confermato, Denise? Io ancora devo andare a vedere. Ho letto. Sì, hanno confermato Chiaiano. Perché io avevo proposto pure Pianura. Sì. Però, perché comunque alla fine la distanza dalla metropolitana al posto è sempre di 1 chilometro. Però loro dicevano, è meglio non allontanarci troppo, perché se qualcuno per sbaglio va a Piscinola, da Piscinola a Chiaiano prende la stessa metropolitana. Noi ci spostiamo dalla zona, qualcuno resta fuori. Sì. Stesso orario domani. Pare alle 2:30. Hanno anticipato. Sì, perché alle 7 ce ne cacciano. Alle 7 ce ne cacciano. I vecchietti, voi non ne tenete conto dei vecchietti, che devono riposare. Oh. Avete ragione. Facciamo prima la rivoluzione, ma voglio darlo uso a Vittorio. Va bene. Ti saluto. Ciao Vittorio, ciao, poi ti aggiorniamo, poi comunque ci aggiorniamo. Va bene, ok, ciao. Ciao, ciao. Ecco che è entrato pure Fabio, c'è anche Fabio. Fabio, non ci crederai, ma io sono riuscita a fare tutto da sola. Però Fabio non ti sentiamo in voce. Ci sono riuscita, presa dalla disperazione più assoluta. Ma Fabio non lo sente in voce. No, ecco, adesso lo sentiamo a Fabio. Ciao Fabio, ben trovato. Stasera questa web Skype praticamente è stata un po' tra il confusionario, il tecnico, le prove tecniche, insomma. Però alla fine siamo riusciti praticamente. E come si dice, come diceva, non mi ricordo chi, il bello della diretta. C'era questa cosa che portavo su Ludovico, ma è bella. Mamma mia, no, infatti Teresa, sto pensando proprio a sta cosa che c'è. Se andiamo... Ma anche ti penso che conviene uno stream. No, ma... Il problema, Fabio, mi ha detto così Luigi Cirillo, che lui praticamente tiene questo canale di Hangout, no? E quindi mi ha detto di mettermi in contatto, prima che andavamo noi con la nostra web di Skype, mi sono contattato pure il suo collaboratore, Spedito De Martino, e praticamente gli ho spiegato, ho detto io mi sono sentito con Luigi Cirillo e Luigi mi ha detto di praticamente dice organizzatevi tra di voi per cercare di usare comunque questo suo canale di Hangout, anche che io inizialmente ho detto a Luigi noi diciamo per praticità un po' stiamo usando Skype, se per te non ci sono problemi poi magari eventualmente posso ribadirlo anche al suo collaboratore, magari quando è stasera, dopo che poi abbiamo finito la nostra webcam, quando magari scriverò queste due note nella messaggeria a Spedito, dico guarda, dici. Posso fare una domanda? Sì, dimmi. Senti, ma tra Bambuse e lo stream, ma ci sarà anche una chat che le persone possono scrivere? Sì, su stream sicuramente. Su stream, su Bambuser. Sì, sì, ma mi sembra anche. Sì, anche su Bambuser. Certo. In questo caso tu aggiungendo quel link, sì, le persone possono postare le loro domande e ascoltare la ricevuta la risposta. E in questo modo non rischi di non far cadere la connessione, perché non c'è più il problema che si connettono 10, 100 meter, perché poi lo stream che fa questa cosa, soltanto io. No, ho capito, ma diciamo far andare la. Cioè tu dici attivare come stiamo facendo adesso, che adesso comunque siamo appoggiati su stream, no? Però diciamo voglio dire, se dobbiamo poi sentire le risposte da Luigi, tu dici cioè fare partire io questa videoconferenza tramite un stream e poi dare il link, no? Da un stream, poi posso trattare comunque. No, un dialogo. Ma con la chat sì. Ma c'è un problema. No. Noi le domande già gliele abbiamo date, capisci? Cioè, se io faccio, se io attivo. Aspetta, mo facciamo intervenire pure Angelo. Se io, Fabio, se io attivo. Se attivo il collegamento, diciamo, come sto facendo adesso da un stream, cioè in effetti vengo inquadrato soltanto io, cioè praticamente io posso solo io dialogare con voi e voi usare comunque la chat per rispondere, capito o no? Mentre se invece volete parlare voi in audio, cioè non riuscite voi dopo ad intervenire. È Angelo che sa che voleva intervenire, vai Angelo! No, ve lo devo solamente dire, io per cose mie vi lascio. C'è. Guardate, sentite, sì. Sì, sì, ti sentiamo, Angelo. D'accordo con le domande, qualche cosa da aggiungere. Le domande sono d'accordo, solamente una cosa, perché poi ho sentito a pezzi, non sempre. Metto, diciamo, al sito regionale che doveva essere attivo, che poi non era attivo. Su questo si è fatto qualche domanda, per grazie. No, stanno ancora in attesa. Però c'era un'altra domanda che non abbiamo, lo sai che non lo so se gliel'abbiamo mandata a gennaio. Qual è? Parlava dell'osservatorio, noi avevamo chiesto se qualche membro della... Sì, l'abbiamo messa nella... Certo. Poteva partecipare all'osservatorio, della disabilità presso la regione Campania e soprattutto sapere questo osservatorio che osserva, perché fino ad oggi penso che non ha osservato niente, perché poi secondo te la questione del sito dovrebbe essere esposta proprio dall'osservatorio per mettere, diciamo, in mora la regione a dire scusatemi ma questo sito non è completo, questo sito non è aggiornato. Esattamente, questo quindi... deve scegliere pure chi di noi lo deve fare, per esempio avevo pensato Gennaro sicuramente, poi qualcuno che ha più tempo. Ma per parlare di persona, presentati come associazione comitato, comitato ancora più semplice. Scusa, cioè, noi siamo un tavolo della disabilità, comitato. Ma non devi dire tavolo della disabilità, devi dire direttamente comitato. Però dico, a parte Gennaro, chi no, a livello di controparte, loro sono più propensi a dire di sì che dire di un tavolo di lavoro, capito? Padre, ma alla fine quello è un fatto politico, quelli alla fine l'osservatorio di Tutakurt sono tutti, diciamo, esponenti poi delle varie combriccole, il Movimento 5 Stelle non ce l'ha. Quindi anche per conto del Movimento 5 Stelle io volevo fare entrare in parte. Non lo so. Come comitato non possono dire no, come persona possono sempre dire ma no, deve essere almeno un'associazione o un comitato, buona la sta risposta. Io penso che le categorie, capite, possono dire. Però penso che le credenziali siano politiche, non siano... non credo che le crede, perciò queste sono una cosa che ho chiesto, cioè stabilire prima di tutto questo osservatorio. Mi sembra che parlava proprio di comitati e associazioni che loro hanno come incontro, come interfaccia questo comitato, cioè questo osservatorio. Leggiti un pochino sulla pagina quando fu costituito, non mi ricordo bene come la trovai io tempo fa, però non l'avevo vista. Io ho chiesto chiaramente ai portavoce nostra, a Cirilli e a Cammarano, di questo osservatorio, cioè di prendere le notizie relativamente a questo osservatorio e di fare in modo che qualcuno di noi ci possa entrare dentro. Abbiamo pensato sicuramente a gennaio. Ci vorrebbe qualcun altro, Angelo, perché non ti presenti tu con gennaio? Io sto proprio andando, vi voglio salutare. Se mi fate un favore, mi inviate via Messenger o WhatsApp o qualcosa, l'indirizzo di domani di Chiaiano, per favore, perché io adesso sarò in viaggio, capito? Va bene. Va bene Angelo, se ci sono novità ti mando pure, ti mandiamo un messaggio oppure un colpo di telefono e ti faccio ti facciamo sapere, diciamo, nel senso, per una conferma del posto per domani. Mi avete sentito? Sì, sì, ti abbiamo sentito, ti contattiamo dopo e ti facciamo sapere dov'è. Grazie tante. Okay. A domani. Ciao. Ciao, ciao Angelo. Ciao Angelo. Vai Teresa. Ernesto, non siete riuscito a farlo entrare nella conversazione. Ma Ernesto, io praticamente mo ho visto che lui si è disconnesso e mo non sto. Stava bloccato come ho detto io. Ma non so se è. No, non lo stesso non lo vedo. Non lo vedo in linea. Fabio! Ma siamo io. Quale fare questa cosa? Siamo io, Antonio, tu, Teresa e Fabio, è in linea, siamo quattro di noi. Sì, sta Antonio, io, tu e Fabio. Sì. Dai, Fabio, che dici, lunedì alle 3 vuoi venire qua? Ma lunedì alle 3 sono a concorso. Dove sei? E io mo sto studiando il macchino di programmazione con Ernesto, io sto a casa tua. E quindi manca il tempo, ci sta. Cioè io, diciamo, alle 4 e mezza sto a centro direzionale. No, ma Chris, Fabio, te l'ho detto, molto probabilmente martedì andremo, cioè lo faremo tramite collegamento, insomma, per il fatto del cattivo tempo. Quindi lunedì? Lunedì, esatto, lunedì e mi ha detto Cirillo, ha detto, cioè, no, gentilmente non mi cambiate l'orario perché poi magari dopo o è capace che, insomma, ci hanno degli altri impegni, ho detto no Luigi, ma non ti preoccupare, a me importava soltanto avere, diciamo, la vostra disponibilità, che si potesse comunque fare tutto, diciamo, via collegamento, considerando che purtroppo abbiamo delle situazioni di cattivo. Ah, quindi non ci vediamo fisicamente? No, non ci vediamo fisicamente, ci vediamo o tramite Skype o tramite Hangout. Io mo quando è stasera ho già contattato il suo collaboratore, che si chiama Espedito De Martino. Gli ho già accennato che mi sono sentito con Luigi e Luigi mi ha detto sentiti con lui e organizza con lui. Ma siccome che Luigi l'account su Skype non ce l'ha e se lo deve creare, lui mi ha detto, mi ha pregato, ha detto Gennaro, se è possibile utilizzare, fare questo con il mio canale di Hangout, che ha detto io ho il canale di Hangout, tu ti senti con Espedito, allora, insomma, ho detto non ci sono problemi, perché poi più o meno, ragazzi, Hangout è la stessa procedura, io e Fabio l'abbiamo comunque anche provato prima che cominciassimo a fare queste web Skype, cioè il criterio è lo stesso di Skype. Cioè praticamente si va su, diciamo, ci danno l'indirizzo come ve l'ho messo io nella chat della disabilità, no? Io praticamente avevo avviato questa chat con Google e poi si è sviluppato un link e ve l'avevo dato. Ma voi, diciamo, chi vuole entrare nella multichat, cioè clicca su quel link e praticamente accetta l'invito di entrare nella multichat. Adesso io non so se è vincolato ad avere per usare il Google Hangout, non so se bisogna avere diciamo l'indirizzo di posta elettronico, e comunque bisogna, io penso che più o meno qua lo teniamo tutti quanti, ma nell'eventualità che qua, tieni un account Gmail, tieni anche Hangout, certo, perciò dico io ce l'ho, ma credo che più o meno un po' ce l'hanno tutti quanti, al limite, altrimenti voi create un attimo, create un coppa Gmail, vi create un account di post di Gmail, ma questo perché? Ma che costo? Stai facendo tutte cose complicate, cioè no. No, non sto facendo questo. Teresa, come ci siamo parlati prima, sarebbe. Ah, vabbè, allora lo faccio, tipo il telefono, no Antonio, allora per quanto riguarda la riunione di domani, Antonio, cioè, ho letto fino a qualche ora fa che stavano cambiando la location perché ci sono . Ok, però aspetta ragazzi, no, no, per non andare a confondere, poi magari quando chiudiamo magari questa qua, poi dopo affrontiamo eventualmente pure questo argomento. Allora, Teresa, per diciamo un pochettino, allora abbiamo dato questo ragguaglio, diciamo in merito alla riunione che faremo lunedì, poi adesso poi quando completeremo andiamo queste domande, diciamo che abbiamo posto, le vado a condividere anche nel post della disabilità. Però Gennaro, ti volevo dire una cosa, ma se butta a caso il tempo non è così uno schifo come sembra, voglio dire. Ma guarda, ma lasciamocelo un attimo in sospeso questa cosa, perché se il tempo non è proprio brutto, io direi che conviene sempre andare di persona. Sì. Anto, tu che dici? Teresa, ma guarda che Audimbe, diciamo... non credo, io non penso che vari molto, comunque portavo tutto di oggi. Sì, non è... avevo trovato quella locale all'hotel Esposito, a Corso Meridionale, ricordo? Sì. E si può andare là perché è scoperto, capito? Ho capito, ma soltanto i ragazzi, voglio dirgli questo. Al momento, avendo diciamo già anche trovato questa soluzione che nel frattempo, anche perché in effetti cioè, due risposte più o meno ci devono dare, capito? No? Allora, almeno per questa volta qua, visto che abbiamo avuto la fortuna che ci sono venuti incontro da questo punto di vista, cioè nel senso c'è di sfruttarla, perché io non credo che nel giro di un paio di giorni, se da qua a un paio di giorni, anzi ho visto che comunque sono più negative le previsioni a livello cioè di temporale. A volte succede che il meteo dice che piove e invece poi non è piove. Hai capito, Teresa? Allora, ma tutto a caso dovesse essere così, perché a me i mezzi mi fanno sempre un poco paura, soprattutto dovendo collegare con delle cose diverse, comunque. No, ma Teresa, ma se c'è stato un problema, diciamo, infatti la cosa, ci dico vicino ai spediti, dica spediti, siccome gli attivisti più o meno hanno la cosa che diciamo che sanno usare Skype, al limite ti dispiace vuoi che vuoi creare. Io Skype lo puoi installare chiunque, anche il barbone sotto la ferrovia ve lo posso garantire. No, ma non, ma, no, ma non è questo. Allora, Teresa, allora giustamente io non è che per me vanno bene entrambe le, diciamo, le soluzioni, no? Però. Praticamente si connette automaticamente con Facebook. Però dicevo così, giustamente, avendo dato lui questa disponibilità che utilizza già questo canale, siccome che poi non c'è nulla ti posso garantire che non c'è nulla di difficoltoso nell'usare, diciamo, Hangout, no? Cioè, perché è la stessa cosa in Skype, solo che invece in Skype è Google Hangout, cioè non cambia proprio perfetta, cioè la modalità della videochiamata, cioè è la stessa, è proprio identica, cioè non cambia proprio niente, hai capito? Che non facciamo una cosa? Sì, ma no, diciamo, possiamo tranquillamente fare una prova, se voi diciamo... perlomeno abbiamo aprire come funziona. Certo, no? certo, ma mo facciamo un attimo, allora possiamo anche fare questo, cioè diamo, esatto, dopo magari terminato, allora se c'è qualche altra cosa che voglio, che più o meno un poco abbiamo, un poco diciamo anche aggiornato, no? Perché comunque insomma questo più o meno è sempre una riunione, diciamo, di aggiornamento, in effetti o no, Teresa, cioè noi siamo comunque rimasti che anche quando domani se andiamo in riunione, non so se acciaiano o meno, comunque noi siamo in fase anche di definizione più o meno di un po' di chiusura per quanto riguarda proprio il nostro tavolo sulla disabilità, insomma tra... No, scusami, ma tu non stai pure al tavolo nostro del sociale? Quando si è tenuto a piscina? Vabbè, diciamo che so, perché l'altro sabato hanno fregato la senso, praticamente. La parte l'altro sabato? Hanno fregato la senso. sociale. Certo. Vedere di chiudere degli argomenti con un cappello, cioè siccome a noi ci mancano quattro argomenti seri, che sono l'immigrazione, il femminicidio e l'infanzia, diciamo, rubata, va, diciamo così, tipo telefono azzurro e quant'altro. E allora ho pensato, Fabio, vedi se va bene pure per te, cioè fare un cappello introduttivo per cui la mappatura del sito del comune di Napoli, che va praticamente rifatto da capo, andare ad individuare tutte quelle associazioni che si occupano di tutto il settore del welfare, quindi anche di rom, immigrati, infanzia rubata e quant'altro. Poi andando nello specifico e andando a fare una mappatura reale delle associazioni, diciamo, esistenti e associazioni fittizie sulla carta. E quindi usare un unico metro per tutti, il controllo, la trasparenza, e poi andare a vedere nel momento in cui ci rendiamo conto che queste associazioni sono fantasma. Teresa, invece di metterti a perdere il tempo a controllare chi è buono e chi è buono e chi è cattivo, ma la cosa più semplice, i soldi partono con dei progetti. I progetti devono avere uno studio di fattibilità. Quando sono gli appalti di lavoro, lo studio di fattibilità ci deve stare per forza. Per questi progetti qua invece no. Quindi se metti obbligatorio lo studio di fattibilità a trasparenza quando ci sono questi fatti, togli da mezzo molte problematiche che ci sono adesso. Cioè persone che non sono oneste, che non lavorano, devono dimostrare fattivamente per la fine quelle che hanno fatto. Al momento noi non sappiamo e non posso proprio credere, no? Comune non abbia fatto che se non lavora bene, non lavora mai. Deve lui dimostrare di fatti, ma che volta se lavora bene. Io dicevo, no, allora io non credo assolutamente che Napoli non abbia fatto nessun progetto sui rom, o non abbia fatto nessun progetto sugli immigrati. Ah, beh, io un progetto che l'avrei, un po' un parco di scelta, ma tutti quanti romani. Teresa? No, un avviso tecnico era, diciamo, prima aveva chiamato Ernesto e aveva detto che non si riusciva comunque a collegare. Beh, ovviamente, insomma, voglio dire, io, diciamo, ho cercato comunque di inserirlo nella web conference, però era giusto, insomma, per dare questa annotazione. Chi è che stava parlando? Io non credo assolutamente che il Comune di Napoli non abbia fatto nessun progetto per quanto riguarda i rom e gli immigrati, ok? Anche il femminicidio. Ora il problema è andare a vedere se questi progetti che già sono stati messi in campo e che già prendono dei finanziamenti, come funzionano? Siccome già sappiamo che funzionano male, perché io involontariamente, quando mi sono trovata al campo, ho fatto finta di perdermi. Io sapevo dove stava il campo rom, però volevo andare a vedere. E ho fatto finta di perdermi e sono entrata in questo campo rom a Secondigliano, perché c'ho mia nonna che abita a Scampi. L'altra sera è stato il compleanno di mia nonna di 82 anni. Ho detto, mo faccio finta di perdermi, ma giunta in tuo campo rom, già avrei come stata situata. Quando mi sono addentrata, praticamente c'era un cordone di spazzatura, diciamo, di circa 600-700 metri, che comprendeva di tutto, dall'amianto, le ruote di scorta, magari la roba che serve per costruire i palazzi, si chiama cemento, cioè ci stava di tutto di più. Non sono arrivata proprio sotto e sotto, perché poi stavano tutti questi bambini che stavano allegramente giocando nella spazzatura. Loro mi hanno un poco guardato e hanno fatto un testa punta, no, sbagliato, ma ci dà, e me ne sono giù. Ma dico io, non è possibile che il Comune di Napoli non abbia dei progetti in campo per una situazione del genere. Allora, io credo che sarebbe più opportuno fare un cappello introduttivo, cioè dire, allora, andiamo a vedere ciò che c'è, in base a ciò che c'è, ciò che può essere migliorato va migliorato, ciò che deve essere sviluppato va sviluppato, ciò che deve essere creato va creato, anche perché noi dobbiamo creare una fattibilità su due livelli, cioè una a costo zero, cioè perché noi al momento abbiamo quello che noi sappiamo e che abbiamo in comune, diciamo quasi in bancarotta. Questo è quello che noi sappiamo, ma l'avrei sovera, io non ci credo proprio. L'ha dichiarata bancarotta. Ma io non credo proprio, infatti io non lo credo proprio questo. Che se lo farebbe ci conviene, così non paghi niente. No, io non credo che il comune sia in bancarotta, io credo invece che una volta che noi avremo la possibilità di chiunque di entrare, noi dopo cosa insomma, che non potremo mai fare perché non ci presenteremo alle municipalità. Teresa. Teresa, Teresa, scusami, ma voglio dirti una cosa. Allora, invece il comune serie A. Ragazzi, volevo dirvi una cosa. Allora, fermo restando, Teresa, che è tutto apprezzabile questo discorso che hai fatto, però noi dobbiamo anche tener conto che a questo tavolo del sociale, cioè comunque ci sono anche delle altre persone che comunque hanno portato delle varie tematiche, per cui diciamo che noi possiamo eventualmente dare un suggerimento laddove riteniamo che si possa eventualmente chiudere questo tavolo sul sociale, non la settimana prossima ma l'altra, perché diciamo al tavolo del sociale si è no, ti voglio dire, Teresa, a questo tavolo del sociale poi ci stanno Massimiliano Gambardella con Imma De Lorenzo e Paola, che comunque stanno anche trattando la tematica per quanto riguarda l'LGBT. Poi, insomma, ci sono una ragazza che dice una cosa interessantissima come fa. No, non vorrei, capito? No, che voglio dire, onde evitare sia fraintendimenti che stai ancora registrando? Sì, assolutamente. Ma io pensavo che avessimo chiuso il tavolo della zappa. No, ma va bene, ma non c'è. Ma non c'è. Teresa, ma non stiamo dicendo assolutamente niente di male. No, vabbè, però comunque stiamo parlando un po'. Certo, ma io mo tra poco diciamo, anche perché noi siamo comunque in questo tavolo dell'argomento della disabilità, che noi stiamo sempre continuando a trattare, comunque è anche inserito in questo contesto del tavolo. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa più importante del tavolo sociale, però voglio dirti, io almeno la metterei come una cosa di suggerimento, nel senso, perché se loro ritengono che hanno gli strumenti, come posso dirti, per dire ragazzi, per noi, anche per noi non ci sono problemi, possiamo chiudere entro la settimana prossima, dopo aver fatto un zunto delle nostre tematiche, per noi non ci sono problemi, ma strettamente noi che stiamo portando, in effetti noi abbiamo portato il nostro tema all'interno poi di questo tavolo del sociale, perché nel comune c'è questa unica commissione che racchiude in effetti questo welfare, queste politiche sociali, la sanità, non c'è una commissione specifica sulla disabilità, per cui noi ci siamo trovati agganciati a questo tavolo di queste politiche sociali. Però noi per quanto discorso regionale che si dovrebbe leggere. Voglio dire, ma noi come indipendenza, noi comunque il nostro tavolo sulla disabilità, se riteniamo tra la settimana prossima, tra questa settimana e la settimana prossima di chiuderlo e di fare il PDF e quindi di inserirlo nel nostro wiki della disabilità e poi dare il link al wiki che stanno comunque che ci hanno attivo sul Meetup Napoli, noi per quanto riguarda la nostra posizione andiamo a definirla e chiudiamo, capito? Ma il problema è soltanto, siccome che noi stiamo partecipando a questo tavolo del sociale, magari chiedere loro, dopo che giustamente Teresa diceva Secondo noi ci sono questi altri argomenti che andrebbero, cioè tipo questo qua, la violenza sui bambini, il femminicidio e argomenti similari. Nel momento in cui magari domani cerchiamo di trattarli e vederli in che contesto per quanto riguarda il comune possono essere trattati, tenete sempre conto che questi argomenti comunque fanno parte, cioè che c'entra la sanità in mezzo, entrandoci la sanità in mezzo diventano praticamente problematiche regionali. Quindi per quanto riguarda strettamente il comune, cioè dovremmo soltanto interessarci e vedere, cioè ritornando al discorso che abbiamo fatto ad uno dei tavoli iniziali, cioè quello di destinare queste strutture che noi riusciamo dopo una mappatura a vedere, sia quelle che diciamo che sono confiscate, non confiscate, sequestrate, che, di cui le teniamo e però il comune non le utilizza, magari diciamo di destinarle a questi come fossero dei servizi di prima accoglienza, magari da questo punto di vista, da questo profilo qua. Però poi dopo penso che per quanto riguarda strettamente la parte che riguarda la parte diciamo sanitaria, medica, questo poi non credo che sia un qualche cosa che noi, dove noi poi possiamo far qualche cosa, poi correggetemi se sbaglio. Io vi volevo ragguagliare di un'altra cosa che stiamo facendo a scuola, Fabio, soprattutto a te che tu sei di pianura, poi vorrei coinvolgere anche un gruppo di pianura su questa cosa. Voi lo sapete che io purtroppo ho perso un alunno la settimana scorsa, di 8 anni. E questa cosa non solo ha devastato me, quanto ha devastato tutta la comunità della scuola. Sì, 8 anni, Antonio. E purtroppo praticamente questa cosa, detto, ci ha devastato talmente tanto che, siccome noi siamo stati una scuola sempre molto inclusiva, cioè nel senso a questo bambino, come a tutti i bambini diversamente abili, non li abbiamo mai fatti sentire di diversi, anzi veramente ci hanno arricchito molto, cioè a me questo bambino mi ha insegnato veramente tanto nella vita, e come a me, alla mia preside, a tutti quanti. E quindi noi praticamente stiamo partendo da un video che dopo vi mando nella chat della disabilità, preparatevi perché è molto forte, devo dire, è bello ed è molto forte, che vorremmo praticamente far trasmettere a tutte le scuole di pianura in contemporanea il 3 dicembre per la giornata della disabilità, la giornata mondiale della disabilità, con una serie di attività che seguiranno, perché vorremmo sensibilizzare tutte le scuole di pianura ad una reale inclusione, perché è vero, si parla di inclusione sociale, si parla di arricchimento dei diversamente abili, ma alla fine sono tutte parole, perché nei fatti praticamente non è così. Il diversamente abile è un problema, il diversamente abile non può girare per le strade perché ci sono le barriere architettoniche e quant'altro. Addirittura vorremmo fare una provocazione molto bella, e io a questa cosa vorrei accanto a me tutto il tavolo della disabilità, che poi tra l'altro ho visto che l'ha fatto anche involontariamente, l'hanno fatto anche a Torre Annunziata, ho visto l'evento, sì. Hanno fatto praticamente una provocazione ai politici, cioè guardate con i nostri occhi, cioè noi a pianura vorremmo praticamente prendere una decina di carrozzine e mettere i politici in terra, e addirittura io ci vorrei mettere l'assessore alle politiche sociali seduto sulla carrozzina e camminare per le strade di pianura e andare a prendersi semplicemente un caffè. Non tanto, un caffè, cioè la cosa più normale che si possa fare per, diciamo, per una persona, oppure andare a mangiarsi un gelato, che a pianura c'è una gelateria che ha praticamente 8 scale per arrivarci. Allora vorremmo fare questa provocazione, vi devo dire la verità, mi piacerebbe avere il tavolo della disabilità accanto in questa cosa, perché alla fine poi è una battaglia che noi stiamo portando tanto avanti, ma a prescindere, siccome non ne volevamo fare un patto politico, perché la gente ormai è stanca della politica, non ci crede, i disabili ancora di più. Ce ne abbiamo fatto a scuola, stiamo organizzando un comitato di mamme per la disabilità, e infatti praticamente io ieri poi di questo parlavo con una mamma a questo incontro, che le diceva che le mamme praticamente dei bambini disabili vengono lasciati soli. E noi volevamo fare un gruppo e poi seguiti praticamente una psicologa gratuitamente, che poi in realtà non è altro che una proposta che avevo portato, se vi ricordate, di disabilità istruzione. Sì. E infatti io ce l'ho detto, guarda tesoro, però questa cosa, prima che poi la vedi nei programmi, guarda che queste cose noi le stiamo facendo. Però quello che noto è che le persone sono proprio stanche. No, non si è sentito, Teresa, che cosa gli hai detto? Dove sei rimasto? No, adesso, pochi secondi fa, no, ho detto, le persone, cioè sì, quando lei mi parlava di questo fatto che loro sono lasciati soli a se stessi, che non... che il problema, cioè, per tutti è un problema, ma per il genitore del bambino disabile è il problema, ha detto vorremmo essere aiutati, supportati anche da uno psicologo, da qualcuno che ci dà una mano. E io ho detto guarda che noi queste cose le stiamo buttando come progettazione per il futuro del programma Movimento 5 Stelle, ma la gente è stanca, non ci crede, non crede neanche a noi. Allora il tavolo della disabilità potrebbe stare accanto a questa cosa, perché noi ci siamo posti sempre con una linea apartitica, diciamo. Certo. Il tavolo della disabilità prima di essere, certo, attivisti 5 Stelle. Ok? Quindi vorrei che voi stessi accanto a noi in questa cosa, cioè se nel caso io dovessimo organizzare delle... Ma io te l'ho detto, Teresa, cerco di fare il possibile per poter presenziare. Tra l'altro mi avevano anche invitato l'attore Annunziata, ma l'ho detto ragazzi, ma sta troppo ma lontano. Ma Annunziata è fatto di mattina, io lavoro, come faccio? No, guarda, no, ma infatti... Una per la stessa cosa, perché noi manderemo questi... Perché va a Vincenzo Russo, e lui è di Piazza. Lo so, è Vincenzo, tu guardate con lì, non è questo, però è una cosa che abbiamo organizzato ieri, perché questo mio alunno è morto la settimana scorsa, e questa cosa... ci ha portato che noi dovevamo fare qualcosa, cioè non ci siamo riusciti a risolvere, non abbiamo avuto il tempo, cioè io non ho avuto il tempo, perché in un anno e mezzo se ne è andato via, cioè io non abbiamo avuto il tempo di adeguare la nostra scuola per lui, però lui deve essere, capito, per noi una guida per fare in modo che altri bambini possano vivere la disabilità come normalità, capito? Quindi noi questa cosa ci ha talmente devastato, scossi, cioè veramente, che siamo partiti subito, cioè l'incidente è successo la settimana scorsa, noi già ieri ci siamo compresi la mamma di questo bambino, che è la cosa più bella che possa succedere, cioè la mamma di questo bambino con tutto il dolore che ha dentro si è messa a disposizione per fare in modo che questo progetto possa andare avanti. E io onestamente ci tengo che il tavolo della disabilità, che veramente ha fatto questa cosa sempre senza nessun tipo di finalità, se non quella veramente di risolvere qualcosa, possa essere accanto a questa cosa. Poi sicuramente ci sarà Vincenzo, ci sarà Fabio con il gruppo nostro di Pianura, però voglio dire, non voglio che prenda un target il Movimento 5 Stelle, anche se stiamo, però non voglio, perché la gente, ho notato che non crede più a niente, veramente non crede più a niente, quindi è meglio che si affezionano alle persone che poi tu dici ok, certo, andiamo. In special modo stupendo che sta succedendo su casino a livello nazionale e anche estero, il culo della volta, bravo, no? Comunque la gente è stabilita, cioè la gente, tu quando gli parli pure del Movimento 5 Stelle, cioè loro sono talmente stanchi proprio di tutto, cioè capito, sono stanchi, dicendo ma lui ha più pulito, lui ha poi, cioè la politica la vedono così lontana, cioè questa mamma di questo bambino che ha preso capo della situazione, no, dell'alunno mio che è finito, un'altra mamma che praticamente è, diciamo, tipo, diciamo, una sindrome, diciamo che il bambino non muove solo gli occhi, ma non so dire specificatamente che patologia è, un bambino speciale, ma veramente speciale, che poi sarebbe il protagonista poi di questo video che adesso vi mando, di questa storia, lei questo diceva, noi dobbiamo chiedere i fondi, cioè il suo sogno più grande, Fabio,